pensieri. Tu dicevi di no, io e te non si può, sarebbe tutto troppo strano. Solo ieri, in quella sera di freddo in un pub, la luna gira, gira, gira, gira, e qualche cosa forse accadrà. Fermi lì, sentendo la mia musica pop, e dopo un bacio, un altro, ancora un sorriso incredulo. Se siamo qui noi c'è un perché, sotto le stelle di dicembre, e rivivendo ancora un po' un mondo che è diventato magico. Sono qui, tu sei qui, ti bacerò e tu baciami. Siamo noi, siamo qui, stringimi e credici. Solo ieri, con le luci già accese in città, e le nostre metà diventate realtà, il mondo dentro ad una scatola. Solo ieri, è una salita che ci porterà su un altro piano, piano, un piano, ancora il sogno diverrà realtà. Fermi lì, sentendo la mia musica pop, e dopo un bacio e un altro, ancora un sorriso incredulo. Se siamo qui noi c'è un perché, sotto le stelle di dicembre, e rivivendo ancora un po' un mondo che è diventato magico. Sono qui, tu sei qui, ti bacerò e tu baciami. Siamo noi, siamo qui, stringimi, credici. Siamo noi, siamo qui, stringimi, credici.